penali potrebbero diventare illeciti amministrativi. Ecco, già in questo caso non c'è più la carcerazione e quindi tu vai a sbloccare tutta una serie, sono migliaia di processi, depenalizzazione di tutta una serie di reati, no? Nel penale, quindi porti la soglia molto più al ribasso, questi processi potrebbero venire risolti con l'attenuità del fatto e tante altre formule giuridiche che escluderebbero questo processo. Tu devi riformare completamente, ma rivoltarlo come un calzino, l'intero codice penale e anche il codice di procedura penale. Quando tu hai più che dimezzato i numeri di processi che si svolgono in Italia, ecco che allora puoi pensare di avere dei tempi giusti. A mio avviso, comunque, la prescrizione, l'istituto della prescrizione, comunque dovrebbe essere mantenuto nei termini in cui è adesso, anzi, secondo me, in alcuni casi andrebbe anche prolungato, come, tra virgolette, come ricatto. Tu, giudice, sai che se non arrivi alla fine del processo c'è questa cosa e quindi l'imputato andrà non assolto, ovviamente, andrà scarcerato, tolto dal processo per via della prescrizione. Certo. Io dubito che si riesca, ma neanche per un problema di tempo, per un problema di assoluta non volontà politica di nessuna forza del Parlamento, perché tra l'altro su questo c'è un'ignoranza pazzesca. Cioè, voi immaginate un personaggio come Bonafede a studiare un nuovo codice penale di procedura penale. Sì.